kirongwe aliero kelilo nosako sera da kirongwe ya uno manifesto sera da kirongwe aliero kelilo nosako sera da kirongwe mapogita, mulando mintita, mi pario te pa minitira, ya dio que ocoa. Luango pato minitiro, iwagire, molitera pati oriwaya, inairo mi pore. Thank you. mino yata Ufanya bwana wadwa Kino kebo mutu Omina yata jalwala Oline wadonye Wayura bwana loni Ogaloke wipati Omina imomozoa Yeriodi, yom sama paki, ya poro ya tolo ya juo. Farawe nigita, jalis kore yudi, wana nere kendo, kawaduo go imbo duo. Farawe nigita, jalis kore yudi, wana nere kendo, Kamini juli, wilo kebo wala wendirate ya migori Milo buda gikora deno mugomo sagimo Yopeso nuoriyo mono yuara sipo Kola tini ya kaya winyo tindo yenyo mono geoti Yeah.